La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta alle 16.36, 30 secondi dagli studi di Radio di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia in questo martedì 28 di ottobre. E prima di andare all'argomento della giornata vi fa anche un annuncio che mi sentirete ripetere di qui a sabato. Perché? Perché da sabato 1 novembre, novità, arriva una nuova trasmissione su Radio 24. Tutti i sabati dalle 10 alle 12 in diretta, basta con le differite, il sabato e la domenica su Radio 24, e da questo sabato 1 novembre dalle 10 alle 12 inizia una nuova trasmissione che si chiama I Conti della Belva, e a condurla c'è Carlo Alberto Carnevale Maffè, oltre a me, a tanti altri un po' puntuti come per esempio Mario Seminerio, che spesso ospita questi microfoni. Quindi appuntamento da questo sabato 1 novembre dalle 10 alle 12 su Radio 24, I Conti della Belva. Vedrete che vi divertirete, naturalmente diretta, quindi telefonate, bla bla bla, vedrete quante rubrichette vi stiamo riservando. Ma andiamo subito al tema del giorno, per chiamare e dire la vostra all'800240024, oppure mandarci sms 3492386666. Questa trasmissione nasce da una lettera, l'indirizzo è la versione di Oscar @radio24.it, da una lettera di un ascoltatore, come spesso avviene con le nostre trasmissioni, che mi ha chiesto, ma tornate su un punto fondamentale, e a giudizio di questo radioascoltatore il punto fondamentale, sì vabbè l'articolo 18, ma insomma c'è un punto fondamentale, quello delle differenze persistenti di trattamento di diritti e di doveri del settore pubblico rispetto a quello privato, piena equiparazione tra pubblico e privato, ci chiede questo ascoltatore. Fin qui figuratevi, io certo non vado convinto di questo, perché ne sono convintissimo, ma quello che mi ha colpito sono gli argomenti di questa lettera, gli argomenti che sono la testimonianza di una vita spesa a occuparsene in prima persona, e quindi gli ho chiesto di essere con noi oggi pomeriggio per darci la sua testimonianza, cioè da che cosa nasce questa sua convinzione che una cosa fondamentale per il paese, per la giustizia, sarebbe quella della piena equiparazione di diritti, di doveri, di forme di licenziamento, di selezione, di tutto, tra dipendenti pubblici e invece lavoro privato. Perché nella descrizione della sua vita ho trovato delle cose che raccontate da me sono così, ma raccontate invece da chi le ha passate mi sembrano di maggiore impatto. Vi dico solo questo prima di presentarvelo, di dire il suo nome e dirci da dove chiama, che una delle cose che mi ha colpito è il fatto che lui non è che si nasconde dietro un dito e quindi nega di essere a tutti gli effetti, secondo le leggi dell'epoca, un privilegiato, perché questa persona che scrive è andata in pensione quando aveva 46 anni, cioè una cosa che oggi per le persone normali è non solo impensabile, oggi il minimo per avere la pensione in anzianità sono 66 anni, in questo 2014, per un dipendente privato, e man mano che passeranno gli anni, come sapete, automaticamente c'è un coefficiente di aggiornamento rispetto all'età media che innalzerà ulteriormente, anno dopo anno, questa età minima. Lui si nasconde e dice no, io la pensione l'ho avuta a 46 anni, quindi adesso sta in pensione, però siccome si è occupato del lavoro pubblico gli ho chiesto di raccontarcelo direttamente. Si chiama Lorenzo e ci chiama da Palermo. Buon pomeriggio e grazie Lorenzo. Grazie a lei, buonasera Giannino, anche gli ascoltatori. Allora, lei per anni che cosa ha fatto? Allora, io per anni ho lavorato in amministrazione regionale siciliana e negli ultimi 15-18 anni dell'attività svolta, io complessivamente ho fatto 28 anni di servizio effettivo, che ho avuto la possibilità di entrare all'amministrazione prima statale e poi regionale quando ne avevo 18 e mezzo. Mi sono occupato di enti locali, cioè svolgevo un'attività ispettiva, di controllo sostitutivo ispettivo negli enti locali, perché come lei sa la regione siciliana ha competenza esclusiva su questo settore, quindi giravamo, almeno io giravo insieme ad altri colleghi, nei comuni rispetto ad una serie di criticità che venivano segnalate o rispetto alle inadempienze che venivano fatte. Diciamo che questa è una delle tante appendici dei poteri speciali dell'autonomia siciliana. Posso chiederle, visto che per inciso poi non ci torniamo perché non è il cuore del problema, ma lei resta favorevole all'autonomia speciale della regione Sicilia? Guardi, lo ero. Adesso devo dirle che è ormai, come posso dire, un retaggio di privilegi. Sono completamente d'accordo con lei. Lo ero e mi sono speso tantissimo per questo, però oggi amaramente le dico che è un fallimento totale. Purtroppo, secondo me, i fatti le danno ragione, e anch'io pensavo che nella riforma del titolo quinto bisognasse occuparsene, però invece resterà tutto così com'è. Andiamo avanti. Allora, lei svolgeva attività ispettiva. E che cosa ha constatato? Allora, intanto le devo dire questo come fatto di carattere generale. Per la mia esperienza le devo dire che l'attività all'interno della pubblica amministrazione, nella migliore delle ipotesi, per l'esperienza che ne ho fatto io, diretta ed indiretta, un dipendente, intanto dalle normali canoniche 6 ore che si facevano, che si fanno, in realtà gli stacanovisti 3, 3 e mezzo, mi voglio allargare. Ci sono delle liturgie dentro la pubblica amministrazione che poi peraltro sono a tutte note, e la cosa triste è che chi per caso poi, pur svolgendo attività privata, dovesse avere avuto l'avventura di diventare un pubblico dipendente, immediatamente assume quella connotazione. La mattina si arriva, il caffè, il giornale, ora ci sono i computer, prima non c'erano, e quindi apriamo il computer, vediamo la posta, forse il solitario, dopodiché le 9:30, l'altro rito del caffè, e poi quelle 2 ore, 2 ore e mezzo, 3 ore. Lorenzo, lei lo sa che nel dire questo suscita due reazioni. Da una parte, tutto ciò corrisponde a quello che pensano tantissimi dipendenti del mondo privato, che sono molto arrabbiati. Dall'altra, ovviamente, chi rappresenta i dipendenti pubblici insorge dicendo: no, questo è uno stereotipo, non è vero, anche nella pubblica amministrazione ci sono i motivati, e il problema è che i dirigenti non li motivano, abbiamo gli aumenti di retribuzione bloccati da anni, eccetera eccetera eccetera. Quello che mi colpisce è che lei di mestiere questo ha fatto, quindi non è un'opinione, per così dire, esterna alla pubblica amministrazione, e poi è andato regolarmente in pensione, cioè non è neanche pensabile che lei abbia nel frattempo maturato per rabbia rispetto, che ne so, a un'estromissione, a un licenziamento disciplinare, quello che ci viene a dire. Lei dice che questo lo ha constatato per anni e anni di lavoro ispettivo, quello che ci dice? Ma non solo questo, potrei dirle che di tanto in tanto, quando torno agli uffici regionali per normali rapporti, mi rendo conto che la questione si è fortemente, come dire, esasperata. Peggiorata. Non credo che ci posso, nel senso che c'è ancora più gente che non fa nulla, con l'intasamento tra l'altro di tutto questo personale che è stato assunto precario, non si capisce più niente. Non nego che ci possono essere alcuni settori, alcuni uffici, probabilmente quelli che hanno, come dire, la diretta dipendenza col pubblico, l'immediatezza, dove lì si è costretti a lavorare in maniera sotto. Ma allora aspetti, Lorenzo, rispondiamo subito a un ascoltatore, Andrea, che ci manda un messaggio e dice: sì, capisco, adesso parla bene che è in pensione, ma da ispettore che cosa ha fatto? Come ha agito quando era in servizio? Domanda di un ascoltatore. Le spiego subito. Quando io ero in servizio inizialmente, evidentemente uno è coinvolto da questo meccanismo. La scelta di andarmene poi all'ispettivo, primissimi anni 90, 93, 94, è stata proprio questa logica, quella di cominciare a fare qualche cosa, perché l'ispettivo peraltro mi portava a stare fuori, quindi io devo dire che ho avuto periodi in cui sono fatto uscire la mattina alle 6:30 per raggiungere un comune distante 200 km e poter arrivare ad un orario normale alle 9, mi ha in qualche maniera fatto lavorare un po' di più, questo lo devo dire. Però voglio essere ancora più chiaro, dentro la regione, se c'è qualcuno che vuole lavorare, nessuno ti dice niente, lavori. Se c'è qualcuno che, se tu non lavori, non ci sarà nessuno che ti dice: ma tu cosa stai facendo? Il meccanismo è questo sostanzialmente. Ma i dirigenti sì. Non ci sono per motivare, sorvegliare, per dare un parere sulla parte di salario, diciamo, di produttività, quella di merito, anche se sappiamo tutti che poi si finisce sempre per spalmarsi tutti in percentuali uguali, a cominciare da quella dei dirigenti innanzitutto, che è molto più elevata di quella dei dipendenti di qualifica più bassa. Cioè, il problema, secondo lei, non viene dall'alto? La la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di un punto di fondo della vita italiana che la politica tende a eludere, insomma, la piena equiparazione del lavoro pubblico e quello privato, da tutti i punti di vista, procedure di selezione, procedure di licenziamento, mobilità, retribuzione, eccetera, eccetera, garanzie, diritti sindacali, tutto quello che volete, tutto, mettiamoci tutto dentro, attraverso la testimonianza di chi ha lavorato per tanti anni in Regione Sicilia e che ci ha scritto e dice: ma veramente per me, pubblico impiego, sono troppe cose che non vanno. Nel frattempo altri ascoltatori fanno presente la loro esperienza, per esempio SMS di un ascoltatore che dice: io e mia moglie siamo due insegnanti elementari che per 4 ore consecutive neanche in bagno possiamo andare. Quindi questa non è una trasmissione pregiudiziale, come vedete do conto di tutti i punti di vista. Resta un fatto però, no? Che noi della produttività della pubblica amministrazione, mentre siamo in grado per ogni settore della produzione privata, se ne occupa l'Istat, anche la Banca d'Italia e così via, di avere un indice di produttività sia multifattoriale che per il solo componente, che per la sola componente lavoro, noi questo per la pubblica amministrazione non ce lo abbiamo, e quindi per me è sempre un punto interrogativo: come si misura la pubblica amministrazione se non ce l'abbiamo come per tutti gli altri settori? E poiché il più della produttività persa in questi 20 anni in termini comparati viene dalla bassissima produttività dei servizi di cui fa parte la pubblica amministrazione, voi capite che un sospetto viene immediato. Allora Lorenzo, avevo prima di strada ti avevo fatto una domanda, come rispondi? Me la ripete, perché mi sono distratto con la questione degli insegnanti. Poi No, allora facciamo così, iniziamo di nuovo rispondendo agli insegnanti dal suo punto di vista. Sì, allora, le dico, io capisco che gli insegnanti stanno 4 ore e sono costretti là, infatti dicevo, chi ha problemi di pubblico alla fine è costretto a lavorare, o comunque ha il senso del dovere per poterlo, per farlo, me ne rendo perfettamente conto. Poi la produttività come si misura è un'altra faccenda, ma se io ho una pratica la poso sul tavolo e allora scopro che per dare un'autorizzazione ci impiego non so quanto tempo, rispetto naturalmente al trattamento dei bambini che mi stanno là e ci devo stare attento, perché poi tra l'altro ho delle responsabilità dirette. Ma il meccanismo sostanzialmente è quello dell'intasamento del meccanismo pubblico, tant'è che io sostengo un'altra cosa: poi il problema non è sburocratizzare, alla fine è quello di avere meno impiegati, perché mi convinco per l'esperienza che ho che spesso regolamenti, circolari o spelli amministrativi sono fatti proprio per creare lavoro agli impiegati che sono in esubero. La domanda che le facevo prima dell'interruzione del traffico, l'informazione sul traffico, era: ma il problema non deriva dal fatto che, per così dire, il pesce puzza la testa, come si dice con un proverbio un po' greve, cioè i dirigenti, non spetta ai dirigenti? Sì, questo è anche possibile rispetto al dirigente. C'è da dire che noi abbiamo situazioni in cui ci sono pletori di dirigenti, spesso dirigenti di se stesso. Noi abbiamo dentro la regione 1800 dirigenti all'incirca, uno più uno meno, e spesso dirigono settori con loro stessi. Quindi si figuri. E poi c'è un altro problema che è quello della... Mi lasci dire questo per ricordare agli ascoltatori che quanto sta nel bilancio della Regione Sicilia per la retribuzione dei dipendenti della Regione Sicilia equivale a quello di tutte le altre regioni italiane. Da sola la Sicilia è una cifra, anche questa è un rapporto su cui veramente è il segno dell'autonomia malata, secondo me, della Sicilia. Però ecco, l'ho interrotto. Contro, devo dirle che ad esempio in alcune realtà comunali, soprattutto i piccoli comuni, ci sono uffici, ad esempio gli uffici tecnici, che si trovano in grande difficoltà. Certo. Da noi in servizio, io sostenni più volte con gli uffici regionali di esercitare un'azione di sostegno nei confronti dei comuni, è in ragione della parte tecnica, è in ragione della parte del bilancio, perché già 15 anni fa mi ero reso conto che i bilanci comunali sostanzialmente erano tutti frastulli, nella misura in cui si appostavano poste in entrate che non erano, diciamo, veritiere, esigibili. Ebbene, le cose poi vanno come debbono andare, perché c'è questo sorta di patto che alla fine tutti, diciamo, stanno, persino io quando ero in servizio, alla fine sta in un meccanismo che ti stritola. Però io cosa suggerisco? Asciughiamolo, riduciamolo, perché se non altro non ostacoliamo la vita di chi intraprende, di chi vuole o di chi sbacca il lunario e deve guadagnare 50 euro al giorno per portare avanti la propria famiglia. In realtà tutto questo poi diventa un ostacolo quotidiano. Ti devo dare l'autorizzazione, ma c'è l'articolo, il codicillo, la virgola e il punto, e ti dico sempre no. Questo accade. Senta, lei nella lettera diceva appunto, raccontando che appunto nel rispetto della legge dell'epoca ha avuto la pensione a 46 anni, che naturalmente da solo si poneva un problema rispetto a suo padre, che faceva il muratore per aziende private o direttamente per il cliente, quindi precario a vita, perché così capita in quei mestieri facendo il lavoratore autonomo, e che naturalmente se lo è sognato di andare in pensione a quell'età. Ecco, lei questa cosa l'ha vissuta come un avanzamento dei diritti di civiltà, oppure guardando poi in faccia suo padre e guardando suoi figli adesso la pensa diversamente? Le devo dire che evidentemente ne godo, direttamente io, indirettamente i miei figli e parzialmente i miei genitori. Però devo dire che non c'è dubbio che mio padre è meno tutelato, ma ancor di più i miei figli sono meno tutelati, perché se alla fine mio padre aveva montagne da scalare dal dopoguerra ad oggi, perché comunque c'erano obiettivi che si potevano percorrere, oggi ci sono deserti da percorrere, quindi per i miei figli diventa ancora più complicato. E per quanto ci possa essere l'impegno, tant'è che tutti si proiettano ad andare fuori, per carità, scelta giusta, bisogna fare esperienze, però diventa ormai un fenomeno di massa, e quindi questo problema me lo pongo proprio ora a parte i miei figli, che magari potranno avere qualche agevolazione in più rispetto al figlio del muratore, perché la mia condizione non c'è dubbio che è una condizione migliore, certo. No, però apprezzo la consapevolezza che adesso abbiamo il deserto di fronte a noi, quindi quei trattamenti restano ingiustificabili. Io ricordo ancora a chi è in ascolto che ci sono regioni italiane, malgrado la cosiddetta riforma dei vitalizi, per esempio nel Lazio, dove il vitalizio si può incassare ancora a 50 anni, per essere chiari. Sto parlando dei consiglieri regionali, sì signore, e c'è una riforma in atto delle nuove regioni, un tentativo di autoriforma delle nuove regioni che sono prossime al voto tra fine anno e la prossima primavera, in cui si eternano dei regali, perché siccome nella finestra legislativa, fino a che c'è l'attuale consigliatura in giro, le regioni possono autointervenire fuori dai limiti, si regalano altri 300 milioni i 460 consiglieri di queste nuove regioni. Quindi col cavolo che c'è la consapevolezza di cui ci parla Lorenzo, cioè del deserto in cui stiamo e di come la gente che non sta nel pubblico e non fa politica è costretta a tirare la cinghia. Sentiamo molto rapidamente come la pensa qualche ascoltatore. Cominciamo con Tommaso da Bergamo. Prego Tommaso. Salve, io volevo solo dire che sono d'accordissimo a equiparare i diritti dei lavoratori privati con quelli pubblici, anche perché il concetto di pubblica amministrazione è molto variegato. Ti posso garantire, io lavoro nel pubblico, che ci sono tanti uffici pubblici dove si lavora bene tanto. Io personalmente tutti i mesi che faccio dalle 20 alle 30 ore in più che non mi vengono retribuite per mancanza di fondi, il mio direttore ne fa dalle 40 alle 50 ore in più. Sì. Che poi per colpa di qualcuno, non credo siano tanti, si debba parlare della pubblica amministrazione come un complesso unico dove ci no, sia... No, ma questo lo capisco, Tommaso, hai ragione, io non voglio generalizzare, molti messaggi riconoscono anche di chi è molto critico sul posto fisso che non si tocca, perché la mobilità c'è solo nella carta, nel pubblico impiego, dicono quello che hai detto tu ed è giusto, mi piace anche chiudere così, questa non è una condanna generalizzata. Io credo che la politica però, i dirigenti eccetera eccetera, dovrebbero pensarci. Continuate con Radio 24, grazie Lorenzo, appuntamento con me domani.